Big half of the house, I'm saying for the 9 pound. Yeah, get down. Talk about it, huh? Check this out, original. Keep it going and you don't stop. Love the way we do the hip hop. Oh yeah, like this. Check it. Hey yo, rock you, I got you. True that, now who that, where you at? Right here. I knew that, did you join the new point for funk fellas? Seller dwellers, R&B and rap fanaticals, acrobaticals, individuals, smooth criminals, overweight, lovable, huggable, snuggable, D, that's me. H to the E to the E to the V to the Y, brandy sweet like candy, get fly. sa che si desidera ciò che si vede. E quando vedo lei, hey, penso cose che non ci si crede. Ti passai, cosa mi fai? Ma ciò che penso non si dice. Ma te sarai felice di dirlo sulla lavatrice, mentre centrifuga e dopo un po' più là sull'asciugatrice. Ehi, te lo direi al cinema, nell'ultime poltrone e nel paragone. 9 settimane e mezzo sembrerebbe un film di Verdone o di Villaggio, te lo direi facendo l'idromassaggio o in un sottopassaggio. Baby, te lo direi in macchina sotto l'autolavaggio, a Roma, Parigi, a New York, nella casa degli specchi, a Luna Park.